Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati a Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni, anche attraverso la musica. E oggi torniamo nel 1992. In quell'anno il Moro di Venezia partecipa alla Coppa America voluto da Raul Gardini. L'imbarcazione italiana elimina francesi, giapponesi e poi anche i fortissimi neozelandesi e vince così la Whitton Cup, ma viene sconfitta dagli statunitensi alla Coppa America. Comunque la favola marinara è partita, l'Italia è impazzita per la vela. Lo skipper del Moro è un americano di 33 anni, nato a San Francisco, sposato con una svedese, italiano di adozione. Il suo nome è Paul Kayar e si racconta Mixer. Ecco, lei oggi comunque è lo skipper numero uno al mondo o giù di lì. Ecco, soprattutto è diventato un eroe popolare qui in Italia, firma autografi come Paolo Rossi e Tardelli dopo i mondiali. Ma che effetto le fa questo scatto improvviso di popolarità? Mi fa grande impressione, sicuramente la mia prima volta nella vita che ho questo tipo di riconoscimento, però tutti devono sapere che dietro di me c'è stato un grande team italiano che ha fatto un grande giro del mondo, sia Giappone, sia San Diego, sia Inghilterra. Ecco, ma si guadagna bene a essere lo skipper numero uno del mondo? No? Sono stato remunerato giustamente, dirò. Sì. Va bene, ma in questa era, diciamo così, super tecnologica anche nella vela, quanto conta la barca, quanto conta lo skipper? Un po' come il guidatore della Formula 1? È simile alla Formula 1, direi. La barca, lo sport è molto basato sulla tecnologia, quindi il mezzo conta tanto lo skipper. Ecco, ma lei si sente di più un manager, un organizzatore che deve gestire un grande equipaggio oppure un artista? Cioè, che margine ha la creatività nel lavoro dello skipper? La creatività ha un grosso importanza su ogni leader, dirò. Gardini è molto creativo e ho imparato quello da lui. Nell'organizzazione di una sfida così ci vuole l'abilità organizzativa, è importante. Ecco, ma qual è la dote principale di uno skipper di altissimo livello? La qualità principale di uno skipper che è un numero uno? Per la Coppa l'abilità di motivare e di portare le gente in una certa direzione. E lei quando ha scoperto di avere questa qualità? Probabilmente verso 20 anni. Cosa è capitato a 20 anni che ha fatto esplodere questa capacità di leadership? Cresciuta la mia personalità, ho fatto la conoscenza con una grande che si chiamava Black Oller. Era il momento. Senta, comunque al centro di questo trionfo c'è il suo rapporto, l'ha detto anche lei, lo dicono tutti, con Gardini. Qualcuno dice addirittura che il suo cognome è cambiato, adesso si chiama Caiardini, è vero? In qualche giri sicuramente mi chiamano Caiardini. Senta, ma è stato un amore a prima vista oppure è un rapporto che è cresciuto lentamente? Diciamo che parlando francese insieme, perché nessuno di noi parlava l'altra lingua, abbiamo fatto crescere un rispetto. Poi vincendo il mondiale di 88 nella Maxi abbiamo visto che avevamo anche una capacità. Potevate farcela. Sì. Ecco, ma che cos'è che l'ha colpita di più di Gardini? Il suo punto di vista da vita e dal mondo, non oggi, però domani. Cioè la sua capacità di immaginare il futuro. Esatto. Ma il 1992, tra storia e musica, arriverà tra poco insieme a Franco Schipani e Alessandra Fiori, che adesso con Alessandra Cravetto fa il punto su questo fine settimana. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Certo che Paul Kayar, che fascino, eh? Beh, lo dice a me, scusa, il fascino del velista. Ti piace, mi piace molto. Ma poi, forse proprio per quello che diceva lui, la capacità di motivare e portare la gente in una certa direzione. Hai colto il punto, perché esatto. Essendo timoniere, se non sa lui la direzione, siamo finiti. Però mi ricorda tanto no, qualcuno. No, non dirlo, l'avvocato. No. No? Molto strano. Meno chic. Meno? Sì. Di. Perché, come sai, Kayar, l'abbiamo sentito, è stato un bravissimo timoniere, ma avrà iniziato, come tanti velisti, dal carrello. Anche lui, insomma. No, che vuol dire? Cazzava il carrello. Ma che cazzare il carrello? Forse cazzare la randa, forse Cravetto stai scazzando. Comunque si dice anche cazzare il carrello, che vuol dire Sì? Tirare il carrello. E c'è qualcun altro in questi giorni che, grazie a delle foto rubate da chi? Rubatissime. Rubatissime. È stato visto carrello mentre si allenava a tirare o a spingere il carrello. Chi è? Non lo so, però intanto io approvo moltissimo la tua scelta, finalmente leggi i giornali giusti. Sì, perché è l'unico che leggo, come sai, gli altri li sfoglio. Ma chi è quest'uomo? Allora, quest'uomo che tirava o cazzava il carrello è Renzi, che finalmente, avendo più tempo a disposizione, stava facendo la spesa di Natale nel supermercato di Pontassieve. Ed è stato casualmente fotografato. Casualmente, sì. E allora? Abbiamo capito tante cose. Allora, prima di tutto, non gli piace il panettone. Perché c'era questo carrello pieno di pandori, di champagne, neanche champagne, c'era del frizzantino. No, ma io ho capito dove vuoi arrivare, vediamo. Tu volevi dire che è per questo che non è arrivato al panettone. Brava, vedi che ci capiamo. Lo sai che era meglio se non capivo stavolta. Dimmi. Però, Cravetto, a proposito di panettoni, ho un regalo per te. È un panettone? No. È un pandoro? No. Ah già, da te, è un libro. Di più, cara, è una cura. Mal d'amore si cura con Fenoglio, l'arroganza con Jane Austen, il mal di testa con Hemingway, l'impotenza con il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati. Perché qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice: un romanzo. A dirlo sono le autrici di Curarsi quei libri, Ella Berthoud e Susan Elderkin. Loro si sono incontrate da studentesse di letteratura all'Università di Cambridge e hanno iniziato a prestarsi romanzi quando avevano bisogno di tirarsi un po' su. Ecco, loro due insieme hanno scritto Curarsi quei libri, rimedi letterari per ogni malanno, che nell'edizione italiana è curato e arricchito da Fabio Stassi, scrittore, neo vincitore del premio Scerbanenko per il miglior noir italiano dell'anno con La lettrice scomparsa. Allora Fabio, tu scrivi che la biblioterapia, il curarsi con i libri, si potrebbe definire un tentativo di vaccinazione dal male di vivere. Ecco, in che modo i romanzi possono essere un vaccino? Sono un vaccino e la malattia insieme. Ma perché un romanzo letto nel momento giusto può cambiarci la vita? Quando incontri il libro che parla esattamente di quello che stai vivendo, tu sei dentro il libro è dentro di te. Tutti i libri parlano di quello che noi viviamo. Il lettore è il protagonista. Io ho sempre avuto l'impressione proprio che alcuni libri mi lasciassero sulla pelle i segni che lascia il vaccino. Io appartengo alla generazione che si vaccinava dal vaiolo e ho sul braccio il segno del vaiolo. In questo senso i libri mi mettevano al riparo da molte cose, mi anticipavano, diciamo, situazioni e possibilità che poi avrei vissuto. Curarsi quei libri? Sì. È un dizionario molto particolare perché va dalla A di abbandono alla Z di zona di sicurezza, ovvero rifiutarsi di uscire dalla propria zona di sicurezza. In mezzo passa per alcolismo, amore non corrisposto, gamba rotta, malessere del lunedì mattina. Ecco, ma come si cura il malessere del lunedì mattina? O scegliamo una cura d'urto, ad esempio apriamo la Metamorfosi di Kafka, che è un lunedì mattina una sveglia un po' particolare, non sì. Ci si riesce ad alzare dal letto perché ci si sente, diciamo, trasformati in insettaccio, ma e in fondo il protagonista della Metamorfosi di Kafka era un commesso viaggiatore, cioè un pendolare. Oppure direi in maniera un po' più leggera, con un albo illustrato, l'ho letto da poco, lei Vivian Maier, pubblicato da Orecchio Acerbo, ed è la storia di questa bambinaia che tutti i lunedì mattina si alzava per andare ad accudire dei bambini, però portava con sé una macchina fotografica, poi lasciò tutti questi rullini dentro una cassa, li trovarono e oggi è considerata una delle più grandi fotografe della vita quotidiana che ci siano state in America, a Chicago. Curarsi quei libri è anche un manuale di elenchi. Ci sono i 10 migliori romanzi per l'adolescenza, i 10 migliori per i trentenni, quarantenni, cinquantenni, fino oltre i cent'anni, quelli per guarire dalle dipendenze, quelli da leggere al gabinetto, quelli per sembrare colti. Ecco, quali sono i migliori per sembrare colti? Quelli che non si sono letti. Senti, tra i disturbi elencati nella lettura c'è quello che lascia i romanzi a metà. Come si cura l'abbandonatore di romanzi? Daniel Pennac, lui diceva che abbandonare un libro a metà è uno dei diritti sacrosanti del lettore. Quindi non si cura? No, non la curerei, nel senso i libri sono tantissimi da leggere, non riusciremo mai a leggere, leggeremo una parte della parte. C'è un romanzo che tu consigli perché è inabbandonabile? Mi viene in mente Rayuela, il gioco del mondo di Cortázar. Sì. Quello in qualche modo per chi abbandona i libri va bene, perché è un libro che puoi leggere dalla fine, da metà, non ha un ordine cronologico, non va dalla A alla Z. Fabio Stassi, nella tua introduzione scrivi che nel tentativo di seguire i frammenti del discorso letterario sulla malattia ti sei trovato davanti la mappa di un paese che soffre da secoli degli stessi mali. Quali soprattutto? Dimmene tre. Primo direi la vigliaccheria, perché Don Abbondio è il personaggio dell'italiano per eccellenza. La seconda è l'egocentrismo. L'egocentrismo è la malattia dilagante dei nostri tempi. E la terza? La bugia, ma la bugia intesa, cioè questo modo che hanno gli italiani di mostrarsi colti, di citare cose che non conoscono, eccetera. Fabio, tu scrivi anche che ogni vero libro, un libro veramente letto, ci lascia nella memoria una cicatrice invisibile che dura tutta la vita. Ecco, per te qual è stata la cicatrice più profonda? Direi Conversazione in Sicilia di Vittorino. Curarsi quei libri di Ella Bertold e Susan Elderkin, curato da Fabio Stassi, Sellerio. Curano, ultimamente ce ne sarebbero diversi da curare. A cominciare da te, Cravetto. Dici? Però secondo me ci ha messo molto peggio. Io non lo so, però dimmi chi vuoi curare. Ma ad esempio Renzi, no? Dicevamo prima, che lettura gli consiglieresti secondo questo manuale che allora, hai letto? Allora, guarda, io sto alla L di lavorare. Di loser. No, L di lavorare. Mancanza di voglia di lavorare, direi di no. Aspetta. Lavorare con gli amici. Ecco, brava, questa è la bene? Sua categoria, va giusto? Bene. Allora, la lettura, lavorare con gli amici, è il segreto della libreria sempre aperta di Robin Sloan. Ecco, Matteo segna, mi raccomando. Ma ti serve altro? Sì. Dimmi. Non lo so. Ma faccio io. Dimmi. Poletti? Ecco Poletti, ma perché secondo te è curabile? Provare. Guarda, subito dopo lavorare con gli amici, cioè lavoro sempre, perdere il. Può andare? Perfetto, per Poletti è adattissimo. Perdere il lavoro, categoria è questa. Allora, lettura. Il consiglio è cordiali saluti di Andrea Baiani. Vado avanti, vuoi ancora? No, meglio di no. La lista sarebbe troppo lunga. Sì, ma fermiamoci qua che va bene. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Mamme, siete ancora in ritardo con i regali di Natale, soprattutto se andare in giro per i negozi vi stressa, vero Fiori? No, Cravetto, io capisco che tu mi trovi stressata, però io vorrei dire che ieri la Cravetto non è riuscita a comprare un regalo di Natale perché ha litigato con la commessa, quindi forse perché è per te. Era più stressata di me. Può darsi, però. Comunque c'è una soluzione, mamme anche commesse a sto punto, perché i regali di Natale li potete creare comodamente a casa vostra, lontani dal casino che c'è fuori. Quindi li creiamo da casa, come? Sì. Allora, sentiamo. C'è un blog, perché là fuori c'è un mondo di donne che adora fare il bricolage, a cui tu e anch'io non apparteniamo. No, perché? C'è questo blog che si chiama Come fare con Barbara. Sì. Lei è Barbara Guglienetti, che è una decoratrice, una creativa, che dà un sacco di consigli e di idee carine per sopravvivere al Natale. Ma per esempio, sentiamo. Tipo. Ti è mai venuto in mente di costruire una cornice a cuore di cartoncino tutto colorato? Ne ho fatte 4-5 stamattina. Ecco, lei le fa meravigliose. Oppure. Ti è mai venuto in mente di fare i sali da bagno fatti in casa? Senti, Cravetto. Va bene. No, perché c'è a chi interessa moltissimo tutto ciò. Tutti a casa della Cravetta a fare sali da bagno per il Natale 2016. Oppure lo saltiamo a pie pari e andiamo direttamente al 2017. Ecco, per come fare chiedi la Barbara. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Enrico Toledo, giovane imprenditore torinese, con un gruppo di amici ha deciso di rilanciare un marchio che noi bambini negli anni Ottanta ricordiamo bene, i Pennarelli Carioca. Enrico, buongiorno. La Carioca è un marchio di pennarelli che nasce quando? Allora, il marchio Carioca nasce negli anni 60 e nasce dall'idea di un imprenditore illuminato torinese che negli anni 60 si innamora di questo prodotto che conosce negli Stati Uniti e lo importa in Europa. Ed è il primo in Europa a produrre pennarelli. Perché è andata male? Ma allora, la storia dice che il pennarello è cresciuto fino agli anni 2000. Negli anni 2000, causa una serie di investimenti sbagliati, la crisi che sicuramente ha portato tante produzioni in Cina, hanno messo in crisi l'Universal, che era la società che aveva lanciato il marchio Carioca, e questa società si è spenta fino ad arrivare ai giorni nostri, dove stava morendo in liquidazione fondamentalmente. Senti, quanto ha contato per te l'idea di rilanciare un marchio che ti ricordavi fin da bambino? Allora, non ti nascondo che quando siamo entrati qui in azienda ci siamo un po' innamorati del brand ed è contato molto. Ovviamente poi subito dopo siamo andati a vederci i numeri. Oggi tu sei amministratore delegato e presidente della Carioca. Ecco, da dove siete partiti per rilanciarla? Prima cosa è stato il team di manager. Come tante aziende italiane non esisteva un team di management, quindi la prima cosa per me è stato raggruppare un gruppo di amici manager tendenzialmente di provenienza di grandi multinazionali e provare a trasformare questa azienda tradizionale italiana in un'azienda organizzata come una grande azienda, con tutte le peculiarità delle piccole aziende italiane ovviamente, quindi con uno sforzo di adattamento, controllo delle macchine con un minimo di struttura, insomma un po' di tutto. Quindi oggi i pennarelli vengono interamente prodotti nell'impresa di Settimo? E noi qui a Settimo produciamo tutti i pennarelli Carioca e le penne Corvina, che è un altro marchio storico dell'azienda, mentre importiamo tutto ciò che è colore in generale, come le matite, i pastelli a cera. Compriamo in Italia le tempere, insomma noi oggi copriamo tutto il mondo del colore. E che particolarità hanno i pennarelli oggi? Cioè, avete sviluppato anche l'inchiostro che usate per i pennarelli? Sì, la particolarità è che noi controlliamo tutto il processo produttivo, il che vuol dire che partiamo dall'inchiostro che viene fatto qui nel nostro stabilimento a base acqua e con pigmenti alimentari, per intenderci gli stessi che vengono usati per fare gli yogurt o le caramelle, quindi c'è una super sicurezza per le mamme che questi prodotti sono controllati e sicuri. Oggi la Carioca dov'è che esporta maggiormente? Quasi 70 paesi e facciamo 80% di export e abbiamo iniziato anche a esportare in Cina, che è una cosa abbastanza incredibile, perché, insomma, questi ultimi 20 anni la roba è tutta arrivata dalla Cina verso l'Europa fondamentalmente. Senti, ma oggi che i tablet vengono usati dai bambini anche per disegnare e colorare, i pennarelli hanno ancora successo? La sfida sarà quella di trasformare Carioca in un'azienda che fa un po' da ponte tra la cosa più tradizionale del mondo, cioè la matita acquarellabile, e le app sui tablet. Noi quello che stiamo facendo è costruire queste applicazioni che rendono vivi i disegni dei bambini, quindi il bambino disegna, colora e poi con le app del tablet fa vivere il suo disegno. È chiaro che il nostro successo passa attraverso il fatto di essere innovativi rispetto alle altre tradizionali aziende di cancelleria, perché sennò siamo uno dei tanti. Senti, ho letto che state sviluppando anche una linea Carioca Baby per i più piccoli. Di cosa si tratta? Abbiamo sviluppato questa linea che parte dai 12 mesi in su, con ovviamente matitone ergonomiche e pennarelli molto grandi che possano far giocare i bambini fin dall'inizio, quindi prima è un gioco, poi diventa un disegno. Il nostro scopo è quello di mantenere un target che va da un anno fino a 9-10 anni, quindi rimanere su un target di ragazzi molto giovani. Quindi in realtà cercare in qualche modo di avvicinarli prima ai pennarelli, a colorare tradizionalmente e poi portarli al tablet. Tenendo presente che il tablet ormai è entrato nella vita di tutti i bambini che da 2 anni cominciano a usarlo e quindi non possiamo far finta che non esista, quindi bisogna convivere e trovare il modo di far convivere il tradizionale con l'evoluzione fondamentalmente. Quindi possiamo dire che il futuro dei bambini è a colori? è assolutamente a colori e oggi il trend del mercato lo dimostra, nel senso che è un mercato che sta crescendo perché sia le scuole che le mamme sono contenti di far usare i tablet, perché veramente tranquillizzano i bambini in alcune situazioni, ma sono altrettanto felici di farli disegnare e di fargli usare i colori tradizionali. Ma che belli i pennarelli, tutti colorati. Mi piace molto, molto. Un futuro a colori. Sì, molto bello. Nel molto nostro bello. Caso, un futuro in bianco e nero. Nel mio, no, a colori. Il tuo, forse. Il mio è a colori. Forza Juve. Ma perché guardi il cellulare? Perché mi è appena arrivato un messaggio stupendo da mia sorella. Sì. Che messaggio è? Che dice tanto, secondo me, sulla wish list dei regali di Natale. Allora, due vecchiette si incontrano e una dice all'altra: cosa ti hanno regalato per Natale? E l'altra dice: un cazzo. Faresti a cambio con un foulard? Dal 27 dicembre al 2 gennaio a Capri c'è la 21esima edizione di Capri Hollywood, il festival cinematografico fondato da Pascal Vicedomini. Pascal, quali sono i film più attesi di quest'anno? Ma sicuramente i due film della giornata inaugurale sono molto attesi, cioè Collateral Beauty, presentato dalla protagonista Helen Mirren, e The Comedian dal regista Taylor Hackford, una coppia d'oro di Hollywood che ci onorerà insieme a tantissimi altri grandi artisti. Ma sono particolarmente orgoglioso che ad aprire ufficialmente il festival sarà il coro del Teatro San Carlo di Napoli, che il 27 pomeriggio intorno alle 16 verrà premiato e si esibirà in piazzetta. Senti Pascal, in passato avete premiato Samuel L. Jackson, John Malkovich, Dennis Hopper, Claude Lelouch, per dirne solo alcuni. Quest'anno chi? Ma quest'anno, a parte i primi due di cui vi ho parlato, ci sarà molto atteso Stephen Frears, un grande regista inglese con questo film Florence, e poi verrà con una grande sorpresa, io mi auguro che sia Dev Patel, il protagonista di Lion, Harvey Weinstein, e poi tantissimi altri amici, Jim Sheridan, Elsa Zilberstein, la russa Xenia Rapoport e tanti musicisti, Enzo Avitabile, Carli Paoli, questo mezzo soprano anglo-italiano fortissimo, la splendida Noah, Clementino, insomma c'è una combinazione tra pop e classico, moderno e devo dire tradizione, proprio in quello che vuole essere la sintesi di Capri Hollywood, ovvero un ponte tra quello che è la storia e quello che è il futuro. Senti Pascal, ma come ti è venuta in mente l'idea di fare un festival cinematografico a Capri e in pieno inverno? Ma io sono dell'idea che l'Italia del Sud, il mezzo, cosiddetto mezzogiorno, potrebbe vivere tutto l'anno di turismo. Quindi insomma, unire qualità e valorizzazione del territorio non è un'impresa impossibile? No, niente affatto. Noi riusciamo a fare comunicazione di alta qualità per il nostro paese nel corso dell'inverno e ne siamo orgogliosi. Pascal, tra le anteprime quest'anno ci sono The Comedian con De Niro, Collateral Beauty, Helen Mirren, lo abbiamo detto. Ecco, Assassin's Creed e poi proiezioni speciali di Axel Ridge, di Mel Gibson, abbiamo parlato poc'anzi, Lion, di Florence. Ma le proiezioni sono diffuse tra Capri e Anacapri e sono esatto. Gratuite? Sono gratuite, un accesso pubblico, due sale, sei film al giorno per 8 giorni. Insomma, una grande festa per adulti e per bambini, perché anche c'è tutto un segmento dedicato ai giovanissimi, con l'anteprima quest'anno di un film, Sing, che corre per l'Oscar nella categoria animazione. E poi soprattutto è molto importante che si riesca a far incontrare i nostri talenti con i più grandi talenti internazionali senza alcuna barriera, senza alcuno steccato. Il che vuol dire dare l'opportunità a tanti giovani campani del mezzogiorno, italiani in assoluto, di confrontarsi con i grandi del cinema. Grazie Pascal Vicedomini. Grazie a voi e seguiteci sul sito internet caprihollywood.com, in tempo reale tutte le informazioni anche per chi volesse venire. E dal 27 dicembre al 2 gennaio Capri Hollywood, appunto a Capri. Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze, come ogni caldo agosto in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove andiamo? Schifani, buongiorno. Estate 92. Ciao Frank. Ciao Ale. 92. L'hai scelta perché stiamo per andare nel 92. Stiamo per arrivare nel 92. Comunque avete cominciato voi. Cosa? Quindi questa notizia la devo assolutamente dare. Quale? San Bernardino, California. Un povero rapinatore entra in un negozio a pistola spianata e le due commesse, arrabbiatissime, lo Lo prendono dei vibratori che li buttano addosso. Ma scusa, che negozio era? Ma soprattutto dove le leggi? Era un sexy shop. Dico, ragazzi, questo è molto grande. Tanti Franco, dice, auguri Franco, buon Natale, grazie. Bene, andiamo nel 1992. Ciao ragazzi. Ciao, auguri, Anche a voi. Grazie. Andiamo Franco? Allora, che 1992 sia. Andiamo.